e quanto è peggio sia lodato Dio. E quanto è peggio sia lodato Dio. Gesù per già giornata gana giornao. Gesù su pilistra di chi si pia.